Storiacce di Raffaella Calandra. Castelluccio, ecco, il paese è disintegrato completamente. Prima già stavamo tutti in albergo. Non c'è fornente. L'acqua non c'è perché comunque la rete è chiusa. Castelluccio è tutto finito. Non distrutte. Quelle che stanno in piedi si tengono perché stanno in piedi, ma dentro sono tutte crepate le case. Castelluccio è finito, non c'è più. È proprio Castelluccio, non c'è più. La terra continua a tremare in centro Italia e le case a crollare. E se non c'è stata una nuova strage è solo perché si era già compiuta due mesi prima nelle stesse zone, con 298 vittime tra Amatrice, Accumuli e Arquata. Quando la terra trema, l'Italia crolla. Quando i fiumi si gonfiano d'acqua, l'Italia si allaga. E noi dobbiamo solo rassegnarci? È accettabile questo o cosa c'è che ancora non va? Questa puntata di Storiacce è allora dentro l'Italia fragile, dopo i terremoti del centro Italia e a 50 anni dall'alluvione di Firenze. L'abbiamo passata in macchina, come tutti penso, la maggior parte. Quindi con l'intenzione di restare qui in zona o di spostarvi? Sicuramente, sì. Non molliamo. Non vi spostate? No, momentaneamente no, anche perché abbiamo tutto qui e andare via, riniziare da capo con questa Italia. Nonostante però la protezione civile sta invitando ad accogliere l'invito di spostarsi in alberghi sulla costa, casomai? Ci abbiamo lavoro qui e si fa fatica, insomma, anche se ci portano magari al lago Trasimeno come hanno fatto. Quindi siamo andati a dormire dentro la macchina per stare tranquilli. E adesso cerchiamo se ci fanno recuperare qualcosa dentro casa. Porto le mutande di mio cognato, di mia nora, che dentro casa non ci fanno entrare, ma come si fa? Non è che voglio stare lì a abitarci, ma almeno fammi entrare per pia qualcosa. Lui tutto lì, sporco, tutto. Avete bisogno di essere accompagnati? Certo. Io basta che mi danno 10 minuti per incimolare qualcosa, poi me ne vado da mio figlio, dopo sto a posto. Ma voi dove siete stati questa notte? Noi abbiamo una roulotte qua su da mia figlia e siamo tutti là dentro. C'è pure un signore che ha 92 anni e non si può muovere. La notte chiama perché lui è abituato a casa sua e si trova a disagio dentro la roulotte. Ma voi siete disposti ad allontanarvi? No. Chi si allontana? Andiamo. E qui abbandoniamo tutto. No, ma se eventualmente vi portassero in albergo? No, non ci spostiamo. Abbiamo una figlia col bambino domani. Lavoro. Però anche se la terra continua a tremare, preferite comunque restare qua? Sì. Qua stavo, andiamo. L'albergo poi? E qua? Davanti alle tenso strutture diventate la nuova piazza, gli abitanti di Norcia si mettono in fila per chiedere di essere accompagnati dentro le mura, laddove sorgevano le loro case, per poter prendere abiti, farmaci e oggetti personali da portare nella nuova vita. Stanno dormendo in auto, nei tendoni o anche in autobus diventati rifugio, perché loro da qui non vogliono essere deportati, per dirla con le loro parole. E allora aspettano le casette di legno promesse dal premier entro Natale. Almeno 200.000 e destinati a diventare ancora di più sono le case lesionate tra Umbria, Marche e Lazio, dove dal 24 agosto si sono contate già 22.000 scosse. Una cifra come non si ricordano precedenti, a memoria del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il numero di scosse è effettivamente molto elevato. Siamo di fronte comunque, come dire, a tre eventi principali. A memoria, diciamo, di cronista o di chi come capo della Protezione Civile, diciamo, sì, purtroppo. No, non a memoria neanche io di sequenze così, di queste scosse così numerose. Tutto questo rende per voi assai più complicato anche le operazioni che si stanno facendo nel centro Italia, con una corsa contro il tempo, anche con il maltempo che sta avanzando. Ecco, in questo momento, direttore, qual è la situazione? Ci faccia un po' il quadro rispetto agli sfollati che vengono assistiti dalla Protezione Civile. Oggi noi assistiamo circa 28.000 persone, più di 8.000 sono alloggiate in degli alberghi. Le altre sono nelle strutture o collettive o comunque territoriali. Ovviamente, come ha sottolineato lei, è molto complicato gestire intanto questi numeri, questo continuo seguire di scosse anche di valore importante. E non facilita né la tranquillità, come dire, delle persone già scosse dagli eventi, e rendono le operazioni molto complicate, perché una delle attività più importanti che dobbiamo programmare adesso sono proprio le visite per definire i danni e chiaramente con questi valori discorsi è anche complicato andare a fare i sopralluoghi. Siamo, come dire, in un periodo dell'anno complicato, le temperature si abbasseranno, il maltempo sta per arrivare, quindi l'insieme di queste cose rende la gestione parecchio complicata, senza poi andare a sommare tutte le i danni importanti che questo ultimo sisma, in particolare questo 6.5, ha provocato sul territorio, quindi un'estensione di danni molto importante, numerosissimi comuni, le infrastrutture soprattutto. Ma la preoccupazione aumenta rispetto al cambio adesso anche delle temperature? Beh, certamente, intanto perché le temperature rigide ovviamente influiscono sui tanti che ancora, per esempio, hanno scelto di dormire in qualche modo in auto, e anche le strutture collettive, per quanto siano riscaldate, non sono certo confortevoli come un'abitazione. Ci sono anche molte situazioni critiche, come dicevamo prima, che con la pioggia potrebbero aggravarsi. Basti pensare ai fiumi che hanno avuto occlusione parziale tramite frane, oppure ad esempio su questo c'è appunto la frana che sulla strada che porta a Castelluccio, che mi sembra preoccuparvi non poco, proprio perché diciamo c'è una strozzatura significativa. Esiste un rischio esondazione? È stata valutata questa frana, così come sono state valutate moltissime altre frane che insistono sia sulla viabilità e sia sulla parte idraulica. Si stanno facendo ulteriori valutazioni e si prenderanno i provvedimenti per minimizzare il rischio, però in assoluto non possiamo escludere che precipitazioni copiose e intense possano provocare, come dire, non solo ulteriori danni, ma qualche preoccupazione più importante. E anche questo è il motivo per cui noi abbiamo chiesto sin dall'inizio di privilegiare il trasferimento, ove possibile ovviamente, in aree al momento più tranquille, così come gli alberghi della costa oppure gli alberghi dell'entroterra umbro, come siamo sul lago Trasimeno. Certo, sul lago Trasimeno, come sì. Quindi mi sembra di capire che la possibilità che ci sia, oltre al disastro del terremoto, i danni provocati da una qualche esondazione del fiume Nera esistono concreti. Esistono sul fiume Nera, come ripeto, come esiste il problema del rischio sulla viabilità, perché noi abbiamo buona parte di alcuni versanti che insistono sulle infrastrutture viarie che sono instabili e quindi reagendo con le precipitazioni potrebbero dare luogo a ulteriore caduta di massi piuttosto che altre frane. Stiamo parlando di infrastrutture seriamente e severamente danneggiate soprattutto da questo ultimo evento. Cioè, io mi permetto di ricordare che questo 6.5 è la magnitudo più alta che si è avuta dal 1980, dal sisma del 1980, sono passati 36 anni su un territorio che, insomma, da un punto di vista infrastrutturale già aveva delle criticità in alcuni casi. È da subito dopo il terremoto che lei fa appello anche alla popolazione del posto perché accetti, diciamo, l'invito ad essere spostata, sia pur temporaneamente, negli alberghi della zona per una questione di sicurezza. Abbiamo visto e sentito le voci degli abitanti di molti comuni che invece invocano le tende, preferiscono a tutti i costi restare lì. Come dire, sta portando avanti un po' una sorta di, come dire, di un'opera complicata di persuasione, una sorta di braccio di ferro per farvi capire quali sono i rischi. Noi non abbiamo mai impostato le cose né in una forma di braccio di ferro né in una forma di deportazione, né in una forma, termini che purtroppo ogni tanto sento ancora e con un certo dispiacere. Noi stiamo dando dei suggerimenti, capiamo la difficoltà di molti a lasciare il proprio territorio. Stiamo dicendo però che spostarsi temporaneamente non significa non rientrare. Poi ovviamente la scelta è assolutamente, come dire, personale. Basta che però ci capiamo anche rispetto al rischio che uno corre in certe situazioni. E faccio l'esempio di alcune frazioni che devono essere evacuate, che è opportuno che vengano evacuate, ma se uno non si vuole muovere evidentemente si espone ad un rischio maggiore e ognuno si assume la propria percentuale, come dire, di rischio rispetto alle scelte che fa. Nei comuni così ampi e con un territorio così devastato è difficilissimo fare un'assistenza che noi riteniamo essere di un certo livello. Bene, chi rimane accetta il livello possibile rispetto e accetta anche il rischio. accetta anche il rischio. Io credo che sia una cosa seria tra persone, ecco. C'era stato appunto un grave terremoto anche nel 97 in Umbria. In qualche modo questi crolli di oggi dimostrano che non c'erano stati degli adeguamenti sismici dopo quel terremoto, che pur fu molto grave? Ne ragioneremo anche all'esito di quelle che saranno le verifiche che saranno fatte a tutti i livelli sulle costruzioni che poi sono crollate. Si verificherà se erano state fatte bene, non erano state fatte bene, se le tipologie edilizie previste anche come miglioramenti erano in linea rispetto alle normative, ma su questo ovviamente ogni caso è un po' a sé. Quando si parla di miglioramento sismico, non è che il rischio zero esiste, il rischio mantiene la sua, come dire, probabilità e percentuale che si verifichi. Ma in questa Italia fragile i rischi vengono dalla terra e continuano a venire pure dall'acqua. E l'uno non esclude l'altro, se è vero che in Umbria esiste ora anche il rischio esondazioni dopo le frane provocate dal sisma. E se è vero che quasi ogni autunno si racconta un'alluvione. E questo vale ancora 50 anni dopo, quel 4 novembre 1966, quando a finire sott'acqua fu Firenze. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Storiacce. Nell'Italia fragile, con il terremoto, le case crollano e le scuole pure. Nell'Italia fragile, quando i fiumi si gonfiano, l'acqua prende il posto di strade, piazze e campi. Nell'ottobre 2015 il fango piegava le viti del Sannio. L'anno prima, e quello prima ancora, in Liguria le alluvioni travolgevano le Cinque Terre, portavano via auto, case e persone a Genova, e poi ancora in Lunigiana, in Sardegna e poi ancora in Calabria. Quasi non c'è regione in Italia che non conosca l'onta del fango. E questo 50 anni dopo l'alluvione di Firenze, quello shock in mondovisione dell'Arno che travolgeva i gioielli d'Italia ma fece scoprire il riscatto degli angeli del fango. 50 anni dopo, l'alluvione continua a fare danni e vittime, perché in Italia abbiamo ancora tanto da imparare, ammette il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Adesso dico, non ci scordiamo che noi abbiamo un rischio idraulico e idrogeologico molto forte, cioè noi tendiamo un po' a inseguire il rischio del giorno, no? Il fatto che noi siamo soggetti oggi, attenzionati mediaticamente ad un evento che chiaramente è importantissimo, perché ha devastato una quota parte importante del territorio, ha portato quasi 300 deceduti, non è che questo viene scontato dall'altra tipologia di rischio per cui siamo fatti salvi sulla parte idraulica e idrogeologica. In quella parte ancora di più, la parte infrastrutturale di lavoro, ma anche la parte di comportamento, quindi di quella che viene chiamata prevenzione non strutturale, cioè qual è il comportamento corretto soprattutto a salvaguardia della vita umana, sono elementi sul quale continuare a ragionare e sul quale continuare a confrontarci. Se siamo a 50 anni dopo l'alluvione di Firenze, sì, e purtroppo in Italia ancora le alluvioni sono una cosa seria che provoca danni, è perché c'è qualcosa che evidentemente ancora non è stato fatto. Sì. È un insieme delle cose, è certamente un uso del territorio in questi anni non buono. Abbiamo cementificato e sottratto territorio alla natura per darlo all'edificazione, alcune volte incontrollata. Abbiamo sottovalutato anche l'evoluzione, per esempio, no? Adesso si parla di questi effetti intensi che stanno colpendo un po' il nostro territorio, e in più probabilmente abbiamo un comportamento, uno stile di vita che tende un po', soprattutto per chi vive nelle città, a minimizzare il rischio derivante dalla natura. L'insieme di queste tre cose ci fornisce un quadro che è ovviamente un quadro di grande preoccupazione, quindi sì, abbiamo ancora molto, moltissimo da imparare. Ma ripercorriamo allora cosa fu l'alluvione di Firenze con i protagonisti dell'epoca che Storiacce incontrò per il 40° anniversario. Qui Firenze, tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari. E stamani alle 5, era via Cerretani. 40 anni sono passati da questa sua radiocronaca, ma fermo sotto il cartello col nome della strada, Marcello Giannini, storico giornalista Rai, sa ancora indicare esattamente fin dove arrivava la piena del fiume e nelle sue parole scorrono i fotogrammi tragici dell'alluvione del 4 novembre del 66. Tutto passava per questa strada e tutto andava a schiantarsi contro la stazione, contro questa pari retro di Piazza Santa Maria Novella. Erano centinaia le macchine e di tutto, alberi, di tutto. Ed era impressionante, assordante. E avevamo proprio non la sensazione, l'immagine precisa della tragedia di Firenze. Qui 2-3 metri alta ed era impressionante la forza, 60-70 all'ora. Piazza Santa Maria Novella. Cos'era 40 anni fa questa piazza? Non aveva l'acqua della fontana, era sommersa dall'acqua dell'Arno. Se noi ci vogliamo, lì c'è un albergo, là c'è la chiesa sulla destra, Santa Maria Novella, e questo fu il deposito straordinario di tutte le macchine che l'Arno portava da lontano e le depositava tutte contro quelle case, contro quell'albergo, a centinaia. Una montagna di auto trascinate dalla forza del fiume. E schiacciate contro queste mura delle abitazioni, con la gente in alto, affacciata, che poi ci ho riflettuto e mi sono fatta una battuta, come si faceva a scappare e correre fuori dalle case. Nell'appello di Bargellini, la mattina, fatto la città, si disse di tirare fuori i canotti, le barche, i canotti, quelle che uno ha, cose da gonfiare. E poi Bargellini disse: andate a svegliare quelli che sono nei piani sotto, perché quelli se no muoiono. Così l'alluvione di Firenze fu raccontata da Giorgio Albertazzi. 4 novembre, giorno di festa grande, di esultanza, di ricordi, di gloria. Ore 7:15 del mattino. Firenze, ancora mezza addormentata, nella culla dei suoi splendidi colli, si attarda fra le coltri e appena appena sta dischiudendo gli occhi. La giornata comincerà più tardi, con la grande parata. Ma ecco che il suo fiume, alimentato dalla grande pioggia e dai suoi affluenti e ruscelli e torrenti, dal Falterone al mare, gonfi d'acqua e ruggenti, che si riversano tutti nel suo letto con impeto convulso, come un impaurito pargoletto in quello della madre in una notte buia di tempesta, rompe gli argini antichi e le spallette, deboli veli all'impeto dell'onda, e straripando invade tutto, ovunque seminando disperazione e lutto. Il furore dell'acqua non distingue il povero dal ricco, lo scantinato, misero ed arredato con vecchie masserizie, dalle case patrizie, le antiche bottegucce dai bei negozi d'arte, le povere casupole sconnesse dai vetusti palazzi, dalle chiese famose, dai musei, dalle gran biblioteche, dalle pinacoteche, e con violenza per ore ed ore sbatte le porte d'oro del Ghiberti, di quel bel San Giovanni cui restavano davanti ad occhi aperti italiani e stranieri, e ne divelge le preziose formelle. Tutto travolge il fiume, nelle strade, nei vicoli, nei borghi, nei giardini, negli orti e nelle piazze. Tutto strappano i gorghi e trascinano via. E poi la quiete, la grande quiete dopo la tempesta. Mentre quello che resta galleggia ora sull'acqua miseramente. Placato il suo furore, il fiume lentamente, placido ed incosciente, ritorna nel suo letto, lasciando nel dolore la città martoriata in un mare di fango, di detriti e macerie. Ora la gente si riversa, convulsa, nelle strade, invade le contrade, cerca i parenti, gli amici, i conoscenti, soccorre i bisognosi, si affretta a dar man forte a chi ha perduto tutto. Si aprono le porte d'ogni casa risparmiata dal fiume, a chi ha la propria invasa dall'acqua e dalla melma. E senza perder tempo, il popolo tenace di Firenze, con indomito spirito e coraggio, con orgoglio e decoro, senza pianto negli occhi, pur se immenso nel cuore, si rimette al lavoro, con altero cipiglio, con volontà e puntiglio, pietra su pietra, come ha sempre fatto. Saprà ricostruire, con dedizione e amore e rioffrire al mondo che da secoli l'ammira la sua città del fiore. Per questa puntata le parole di Albertazzi hanno sostituito le nostre mitiche storiacce. Ma a voi cosa evoca il ricordo dell'alluvione di Firenze? E voi vi sentite fragili in quest'Italia che crolla e si allaga? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Se avete segnalazioni, la mail è storiacce@radio24.it. Per riascoltare questa come tutte le puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto! Thank you.